Giorgio Ferrero, regista del film Beautiful Things, che sarà al cinema da lunedì 4 aprile 2019. Giorgio, ben trovato. Grazie, ciao a tutti. Come lo racconteresti in breve a chi ci ascolta? Sostanzialmente è un trip, è un grande viaggio dietro alla vita nascosta degli oggetti della nostra vita quotidiana. È un viaggio che parte in Texas, in mezzo ai pozzi petroliferi del più grande bacino di estrazione del mondo, si sposta sulla nave cargo che attraversa l'oceano per portare in giro i nostri oggetti, si passa attraverso una camera anecoica. Le camere anecoiche sono le camere del silenzio, dove gli oggetti devono essere per legge misurati e validati prima di poter essere messi in commercio per quelle che sono le normative europee e internazionali. E l'ultimo atto è girato all'interno di un termovalorizzatore in Svizzera, dove gli oggetti vengono bruciati dopo essere stati buttati via. Non è un documentario, diciamo, tradizionale da scarico, è un musical a tutti gli effetti, il mio background da musicista, e si racconta nel film, si raccontano le vite di questi quattro personaggi, uno per ogni luogo, che vivono, diciamo, con le loro memorie e la loro storia in solitudine. E ogni giorno portano avanti questo lavoro per gli altri, no? Che crea poi la nostra vita, che è alla base della nostra vita consumistica, rimanendo nel silenzio senza che nessuno si renda mai conto della loro esistenza. Quindi è la storia di questi quattro uomini, messa in relazione con la mia, una vita normale di 35-40 anni, che ha avuto, no? Diciamo, una vita normale e banale di accumulo di oggetti senza rendersi conto di quello che c'è dietro, ignaro di tutto. La prima curiosità è come è nata l'idea di questo lavoro. Il lavoro nasce nel 2013 quando abbiamo prodotto con il mio studio a Torino, Mai Bosuosi, per la prima volta un cortometraggio con come protagonista Andrea, che è il protagonista del terzo atto di Beautiful Things, lo scienziato acustico che valida gli oggetti prima della messa in commercio. Andrea ci ha aperto le menti, mi ha messo a contatto, mi ha messo in contatto con un mondo di cui non conoscevo l'esistenza, che è quello appunto nascosto dietro gli oggetti della vita quotidiana. Così ho iniziato un percorso di studio, no? Sono appassionato al tema, finché ho presentato alla Biennale di Venezia nel 2016 il soggetto per questo racconto dei luoghi nascosti, dell'accumulo della vita quotidiana. E poi alla Biennale di Venezia ho avuto la fortuna di vincere la Biennale con Legge Cinema, che è un concorso molto ambito di produzione di opere prime indetto dalla Biennale di Venezia, e poi lì è iniziato il nostro vero e proprio viaggio con la produzione del film. E i protagonisti come li hai trovati? Allora, a parte Andrea, che io già conoscevo, chiaramente gli altri tre sono stati, appunto, li ho ipotizzati in fase di sceneggiatura, iconizzando quel tipo di personaggio in base a quello che avevo letto, visto, informandomi. Dopodiché, quando ho avuto modo e accesso, quando ho avuto modo appunto, di vedere e di toccare questi luoghi, ho iniziato a cercare dei personaggi che potessero essere adatti alla storia che avevo in mente. In realtà è stato abbastanza semplice, perché quando sono arrivato in Texas la prima volta e ho chiesto al direttore di produzione in Texas di fare un casting con quel tipo di personaggio, no? Il personaggio solitario, ma all'interno dei pozzi, con una storia molto travagliata, lui mi ha detto: guarda, è facilissimo, tu vai per strada qui a Odessa e Midland, fermi una persona a caso e hai il tuo personaggio. Questo voleva dire che avevo più o meno centrato una tipicizzazione di quel tipo di vita. Poi in realtà non è stato così semplice, perché poi chiaramente un conto è azzeccare il tipo di personaggio, un conto è convincere una persona in Texas a fare un film con te su quel tema, no? Poi raccontandone in profondo tutta la sua storia. Quindi poi è stato abbastanza complesso, però li ho trovati in questo modo. Una volta trovati, abbiamo riscritto insieme quella che era questa sceneggiatura, basandosi sulle loro storie reali, su quello che avevano vissuto e appunto cercando di trasmettere quel tipo di esperienza al pubblico. Tra un capitolo e l'altro ci sono anche dei momenti con riprese private in cui gli oggetti richiamano gli anni 80 e 90. Sì, è la mia vita. Ci sono delle sorte di polaroid visive, video, insomma. Sono quattro ritratti della mia esistenza come normalissimo abitante di una città. La prima scena è girata in quella che era la mia stanza di giochi quando ero bambino a casa dei miei genitori vicino a Cuneo. Ho scelto quel momento perché io sono nato nel 1980 e la mia generazione è la prima generazione che ha iniziato ad acquistare gli oggetti e i giochi attraverso le pubblicità in TV. Infatti in questa scena si racconta del mio accumulo da bambino della presenza della TV in casa e incontriamo questo robottino Saturn che era un po' un simbolo della mia generazione, era quel robottino che tutti volevano. La seconda scena invece è a fine degli anni 90, è girata in quello che era il collegio universitario, in una stanza identica alla mia, e ho scelto quella scena perché la mia generazione è anche quella generazione che ha vissuto il passaggio all'età adulta con il passaggio tra il mondo analogico e quello digitale. Noi siamo stati i primi, a fine anni 90, inizio anni 2000, a navigare su internet e a formarci, a crescere anche sessualmente attraverso la rete, cosa che prima non era mai avvenuta. Quindi per me quello era un momento piuttosto importante della evoluzione di chi alla mia età. Le ultime due scene sono ambientate oggi. Una è nella casa mia, da cui vi sto chiamando, proprio sul terrazzo in cui mi trovo in questo momento, ed è il luogo dove io sto crescendo mia figlia, che attualmente ha 4 anni, che anche lei chiaramente in quella fase vorrebbe ricevere regali, no? E lo ricorda tutti i giorni, e in questa scena si racconta quella che è una classica e banale festa di compleanno di bambini. E l'ultima scena invece è girata nel centro commerciale a Torino, dove io abitualmente vado a fare la spesa, che è, insomma, chiude il film, con cui non posso raccontare troppo, però certo. Un momento piuttosto forte. L'elemento che salta subito agli occhi, tu sei fotografo, è la cura e il gusto della composizione dell'immagine. Sì, io in realtà ho sempre avuto una vita un po' duplice. Da un lato ho sempre lavorato come musicista, ho firmato circa più di 20 film come compositore o come sound designer, lavorando con registi italiani e stranieri. E dall'altra parte io ho sempre lavorato con le immagini, perché parallelamente ho sempre prodotto immagini e curato quella che si chiama art direction di opere, installazioni, mostre, piuttosto che campagne. Quindi questa, insomma, doppia vita, no? Tra il suono e le immagini, chiaramente sono la base di partenza del mio percorso. E il mio coautore del film, Federico, è un direttore della fotografia, insomma, quindi chiaramente il nostro metro, il nostro approccio è un approccio estremamente estetico prima di tutto. La produzione è 2017 e questo tempo prima della distribuzione, come mai? Il film ha avuto una vita particolare, è stato presentato in anteprima alla Mostra del Cinema di Venezia nel 2017, dove ha vinto il premio Arca miglior film italiano. Poi c'è stato un silenzio di 6 mesi, nonostante le richieste, perché volevamo conoscere il tipo di film su consiglio anche della Chiesa di Venezia e iniziare il percorso prima dall'estero. È stata una buona idea lungimirante, perché noi abbiamo poi fatto la prima internazionale a Cage Docs esattamente un anno fa, oggi, e quello è stato un po' il vero proprio esordio del film, perché poi da quel momento il film, dopo aver vinto la competizione a Cage Docs, quindi con una grande visibilità internazionale, ha iniziato un turnover, festival e proiezioni e distribuzioni nazionali all'estero molto forte. Ad oggi ormai il film in un anno ha fatto circa 70 festival, ha vinto decine di premi ed è stato distribuito in diversi stati e tradotto in 16 lingue. Quindi la scelta è stata quella di partire dall'estero per poi trovare la situazione migliore per farlo vedere in Italia, dove non è facile, già con un documentario trovare la situazione in sala, in più con un film così poco classificabile, no, sarebbe stato molto difficile. Invece questo percorso lento e di distribuzione internazionale ci ha permesso poi di tornare con una eco diversa. Siamo molto contenti perché stiamo lavorando con Monti, perché è una realtà distributiva che a noi piace molto, sono estremamente talentuosi e molto e amano molto i film che distribuiscono e osano anche tanto. E quindi questo percorso ci ha portato poi oggi a poter fare un'uscita sala in Italia, anche direi in modo inaspettato, perché devo dire la verità, sapendo di aver fatto un film così un po' spiazzante, sapevo che insomma non sarebbe stato facile, no? In Italia, e invece siamo molto contenti di poter fare questa intervista perché il film sta uscendo anche da noi. E allora ricordiamo il documentario Beautiful Things al cinema da lunedì 4 aprile 2019. Un saluto e un ringraziamento al regista Giorgio Ferrero. Un abbraccio, un in bocca al lupo e a presto. Grazie, ci vediamo a Roma se venite a vedere il film. Buon lavoro a tutti, grazie.